4. Che l'uragano ruggisca, prima sarà finito. Supereremo la tempesta e atterreremo alla fine sulla riva felice di Canaan. Per 3 giorni e 3 notti il vento non cessò di ululare, e quando Caroline aprì la porta non riuscì a vedere il davanzale attraverso la neve che turbinava. Non riusciva a capire quanto freddo facesse. Alla vista della nuvola si era affrettata a stipare ogni centimetro libero della piroga con il fieno. Si è attorcigliato fortemente. Procurava una fiamma breve e calda, ma ben presto i palmi di Caroline furono tutti rovinati e sanguinanti per aver maneggiato quella roba dura e tagliente. Nonostante tutto, lei continuò a torcerla e tenne la piroga al caldo. Nelle lunghe ore di buio, poiché era parsimoniosa con il cherosene, una luce vacillante proveniva dalle correnti d'aria e dal coperchio rotto della stufa. Lei cominciò a combattere un timore vago e mostruoso che si nascondeva sotto i suoi pensieri. Non riusciva ad afferrarlo nella sua interezza. Ne era sempre consapevole, ma non riusciva mai a sconfiggerlo. Giaceva informe e nero nel profondo di lei, e di tanto in tanto le balenava una domanda: e se il bambino si ammala? Non si ammalerà, replicò lei. È un bambino forte e sano. Se si ammalerà, mi prenderò cura di lui. Me ne occuperei comunque. Non c'è un medico in città. E se fosse successo qualcosa a Charles? Supponiamo che non torni mai più. Stai zitto, io non ti ascolterò. Era come l'ululato di un lupo nel vento. Lupi? Ah, sciocchezza, ho la pistola. Come potrebbe un lupo entrare dalla porta? Ma quando esci? Se un lupo spuntasse all'improvviso, che ne sarebbe del bambino da solo nella piroga? Ma perché mi spavento con orribili fantasie? Non succederà nulla del genere. Tuttavia non riuscì mai a sconfiggere il terrore informe e senza nome. Messo a tacere, non la lasciava. Avrebbe ricominciato subito. E se il bambino si ammala? Oh, basta, basta, basta, non posso sopportarlo. Gridava, angosciato il suo spirito. E lei si chiese con rabbia: ma che cosa ti succede? Tieni duro, mostra un po' di coraggio, è solo una tempesta. Ce ne saranno molte altre prima della primavera. E cercò di vincere quella cosa informe e scura ignorandola. Il vento ululava, l'oscurità grigia premeva contro il vetro di carta, un po' di neve dura, asciutta come sabbia, veniva spinta attraverso la fessura sotto la porta. Il quarto mattino Caroline fu svegliata da un immenso, profondo silenzio. L'aria gelida le pungeva le narici, la coperta era orlata dalla brina del suo respiro, accoccolata nell'incavo del suo stesso corpo. Il bambino dormiva tranquillamente. La finestra era di un grigio vago nel buio. Lei accese la lampada e accese il fuoco della stufa fredda. Non si spaventò finché non cercò di aprire la porta, ma qualcosa all'esterno la trattenne contro la sua spinta sicura. E all'improvviso un terrore selvaggio la possedette. Sentì una cosa fuori, premuta contro la porta. Era solo neve. Si disse che era solo neve. Non c'era pericolo. Il cornicione era stretto. Usò tutta la sua forza e il suo peso contro la porta, le si buttò contro. Le robuste assi fremettero e si scontrarono con uno scricchiolio e un cigolio contro la sua spalla, e dall'alto in basso si sentì un suono simile a un graffio beffardo di artigli. Poi la neve cadde lungo il brusco pendio sotto il cornicione e la luce del sole trafisse gli occhi di Caroline. Prendendo la pala, forzò il suo corpo attraverso la stretta apertura che aveva guadagnato. Per un istante il dolore agli occhi la accecò, poi vide l'immensità del bianco e del blu abbagliante e si trovò da sola di fronte allo spazio. Sotto il cielo incommensurabilmente vasto, una distesa infinita di neve rifrangeva il freddo scintillio del sole. Nulla si muoveva, nulla respirava, non c'era altro movimento che il gioco incessante di innumerevoli e impensabilmente minuscoli raggi di luce. L'aria, il sole, la neve erano l'intero mondo visibile, un mondo né vivo né morto, terribile perché estraneo alla vita e alla morte e ignaro di esse. In quell'istante si rese conto dell'infinita piccolezza, della debolezza della vita nell'universo senza vita. Sentì le forze immense e insensate contro cui la vita stessa si ribella, infinitamente piccola e debole. Era la scintilla di calore in un cuore vivente. Eppure, coraggiosamente, il piccolo cuore continuava a battere. Stanco, debole, oppresso dalle proprie paure, dai propri dolori, continuava a persistere, indomabilmente continuava a esistere e nella sua stessa nuda esistenza, senza certezza di vittoria, persino senza speranza, nella sua indomabile esistenza tra forze vaste, incalcolabili e senza vita, era invincibile. Caroline non fu mai in grado di dire, nemmeno nei suoi pensieri più intimi, ciò che sapeva quando uscì per la prima volta dalla panchina dopo la bufera di ottobre. Fu un momento di terrore, coraggio e orgoglio inesprimibili. Era consapevole della dignità umana, sentiva di essere viva e che il divino era con la vita. Pensò: le porte dell'inferno non prevarranno contro di me. Sentiva quello che sentiva Charles quando cantava: che l'uragano ruggisca, resisteremo all'uragano. Trasse un respiro profondo e con la pala cominciò a spalare la neve. Il vento l'aveva ammassata, dura come il ghiaccio contro la porta e la riva del torrente. Il sentiero era completamente sepolto sotto una colata inclinata. Ma lei, pollice dopo pollice, battendo, scavando, raschiando, picchiando, sollevando, riuscì a creare una via sulla quale poteva camminare in sicurezza. E quel graffio sull'illimitata distesa di neve senza traccia fu il suo trionfo. Una bufera di neve di tale gravità, così presto in ottobre, sembrava preannunciare un inverno insolitamente rigido. Non poteva sapere quando sarebbe arrivata la prossima tempesta e la sua prima preoccupazione era il carburante, naturalmente per scaldarsi. Scavò nelle cataste coperte di neve vicino al fienile e legando una corda attorno a grossi fasci di fieno li trascinò uno per uno lungo il sentiero nella piroga. Quando gettò l'acqua in cui si era lavata le mani, notò che le sue gocce tintinnavano sulla crosta di ghiaccio. Si erano congelate nell'aria. Stupita si guardò allo specchio. Il naso e le orecchie erano bianchi e dovette strofinarli con la neve finché non si scongelarono dolorosamente. Per 3 settimane il tempo fu mite, la neve si stava sciogliendo, ci furono giorni in cui la porta rimase aperta addirittura e l'aria era come se fosse arrivata la primavera. Dall'alto della capanna poteva vedere la città, anzi poteva vedere 50 miglia oltre la città. Ma la sua lettera rimase non spedita. Il simpatico signor Gray e la sua Ada non vennero. Forse non aveva più la slitta, forse non osavano avventurarsi così lontano dal rifugio per evitare che un'altra bufera li cogliesse. All'inizio di novembre l'inverno si stabilizzò. Una bufera di neve si susseguiva da nord-est. A volte c'era una giornata serena, a volte solo poche ore. Non appena i venti cessavano di ululare e la neve si diradava in modo da permetterle di vedere, lei usciva con la pala. Il vento soffiava costantemente, spingendo un basso strato di neve davanti a sé. A volte lavorava in profondità nella neve soffiata, così spessa che non riusciva a vedere i suoi stessi piedi. Il mondo intero sembrava coperto di spruzzi bianchi che volavano sotto il sole freddo. I suoi occhi erano iniettati di sangue e la sua pelle bruciava e si riempiva di vesciche. Ma lei non entrava mai nella piroga senza guardare se il viso e le orecchie fossero congelati. Nei giorni bui delle bufere tesseva il fieno, accendeva la lampada per pulire, cucinare, lavare e giocava con il bambino. Ora lui era più grande, guardava i bagliori del fuoco, batteva le manine e i suoi palmi morbidi non si perdevano quasi mai. I suoi occhi azzurri guardavano in quelli di Caroline. Il suo corpicino sodo aveva una volontà propria. Riusciva a tenere su la testa con orgoglio, riusciva a raddrizzare la spina dorsale, da solo riusciva a sedersi e a gattonare, scalciando e gracchiando e metteva suoni quasi simili a parole. «Mamma!» lo sentiva dire. «Papà!» lo esortò lei. «Dillo, fagottino, di papà!» «Blablub!» rispose lui trionfante, lanciandole un'occhiata maliziosa che le fece sciogliere il cuore. Inginocchiata accanto alla cuccetta, strinse il piccolo corpo guizzante tra le sue mani indurite, lo fece rotolare, ruzzolare, seppellì il suo viso ruvido. nella morbidezza del piccolo corpo caldo, profumato, del bambino. Il pugnetto di lui le strattonava dolorosamente i capelli, ma lei rideva, stuzzicandogli il naso con le punte allentate. Aveva cominciato ad essere allegro, quasi quanto Charles. Si chiese: Charles è allegro perché ha paura? Perché deve essere così coraggioso? C'era sempre il dolore dell'incompletezza senza di lui, il timore informe che da un momento all'altro potesse trafiggerla con una domanda. Ma il giorno dopo il bambino e lei sopravvivevano ancora e nella piroga i venti ululanti, il freddo, la neve e il buio non potevano toccarli. La sua allegria era una sfida. Poi arrivò la bufera di 7 giorni continui. C'erano state solo poche ore di tempo sereno, ma Caroline aveva lavorato disperatamente, aveva abbastanza fieno per 3 giorni e non aveva mai visto una bufera durare più a lungo. Il terzo giorno bruciò il fieno con parsimonia, ma non si allarmò. Il quarto giorno spezzò e bruciò una cassa, mantenendo la stufa appena calda. Il quinto giorno bruciò la scatola rimanente. Rimasero le pesanti panche, il tavolo e la culla. Nella sua follia aveva lasciato l'ascia nel fienile. Oh! Si sedette avvolta nelle coperte sul bordo della cuccetta e quando il fuoco si spense non ci fu più luce. La finestra era oscuramente grigia, un occhio fioco e naturalmente quadrato che la guardava. La robusta porta tremava sotto i colpi e gli strattoni dei venti urlanti. Il tempo si perdeva, tanto che non sapeva se fosse giorno o notte, né da quanto tempo quei venti possedessero e occupassero tutto lo spazio. Aveva sperato così a lungo di sentire la loro energia esaurirsi che le sembrava ora inesauribile. La piccola sacca d'aria immobile nella piroga era sempre più fredda. Se lei e il bambino si fossero sdraiati vicini sotto le coperte, avrebbero potuto resistere per qualche tempo nel calore dei loro corpi, ma se questo fosse andato avanti all'infinito, non avrebbero potuto, ovviamente. Rinunciò debolmente al problema delle pesanti panche che tanto non riusciva a rompere con le mani. Doveva usare la culla, ma temeva di bruciarla così presto. Il settimo giorno la culla fu distrutta e bruciata. Gli uccellini che Charles aveva intagliato servirono a far bollire tè e patate. Schiacciò una patata in un po' d'acqua calda e la diede da mangiare al bambino con un cucchiaio. Poi spense la lampada e si sdraiò con lui sotto tutte le lenzuole e le coperte che aveva. Finalmente un cambiamento nel suono del vento la svegliò. Non sapeva se fosse notte o giorno, ma quando aprì a forza la porta vide un candore di neve battuta. Un feroce vento del nord spingeva i fiocchi costantemente davanti a lei e il sollievo di Caroline fu come un grido di gioia. La neve non stava più turbinando. La bufera era finita. Quando aprì la porta la tempesta era diminuita, in modo da poter vedere vagamente all'interno. Riuscì a liberare il sentiero e quando lo raggiunse riuscì a scorgere le forme tenui del fienile e dei pagliai. Il vento quasi la toglieva da sotto i suoi piedi e quando prese un fascio di fieno e lo trascinò tra le soffici coltri, dovette lottare contro di esso, come se fosse una cosa viva che si dimenava per scappare. Dopo aver riempito la capanna con il fieno, tese una corda dal fienile fino alla cima del sentiero in modo da poter prendere il legno se necessario durante la bufera di neve. Attraverso la tempesta le sembrò di vedere vagamente una macchia scura sulla riva opposta del torrente. La cosa la turbò perché non riusciva a immaginare cosa potesse essere. Forse un'illusione di occhi che piangevano nel vento, forse un pericolo dal quale doveva difendersi. Chiuse in fretta la porta e si abbandonò alla meraviglia del calore e del riposo. Al mattino, nello scintillio abbagliante del sole sulla neve, vide dall'altra parte del torrente una mandria di bovini, rannicchiati insieme con la testa rivolta a sud e il naso abbassato sulle ginocchia. Stavano lì, pazientemente, sopportando il freddo. Con terrore pensò ai pagliai. La riva del torrente li nascondeva al bestiame ora, ma se la mandria si fosse spostata a sud-est, attraverso la palude, e avesse visto tutto quel cibo, tutta la forza del vento avrebbe impedito loro di girare e distruggere il suo fieno. Indossò le fasce, prese la pistola, Non con il forcone o con l'ascia, sapeva, avrebbe potuto allontanare il bestiame affamato dal cibo. Né osava rischiare di affrontare un loro assalto, poteva solo tentare di fermarlo con gli spari o, non riuscendoci, rifugiarsi nel fienile. Se il fieno fosse andato perso. Ma il bestiame non si muoveva. Mentre guardava, le venne in mente che da molto tempo non si muovevano. Ieri aveva visto la mandria rannicchiarsi immobile nella tempesta. Questo prodigio, questo fatto incredibile del bestiame che non si muoveva davanti a una tempesta, le agghiacciò il pensiero. Fissò le bestie, i fianchi smussati, le ossa rigide, i colli cadenti, le code flosce, immobili, come scolpite. Erano morte, congelate? No, il respiro usciva bianco dalle loro narici. Allora, che potessero essere morte. Aveva una visione di carne da mangiare. Il suo coraggio vacillò. C'era qualcosa di mostruoso, qualcosa che le incuteva terrore, un terrore irragionevole, come un soffio soprannaturale in quella mandria di bovini così immobili. Con la mascella serrata contro il freddo, scese lentamente, immersa fino alle ginocchia nella neve alla deriva lungo la riva e attraversò il torrente ghiacciato. Era un rischio troppo grande, lasciare il bambino nella piroga e avventurarsi dove non si sa. Ma il bestiame non si muoveva. Lei si avvicinò a 10 metri da loro, a 5, a 2. Non alzarono nemmeno la testa. Sopra i loro occhi, spessi, sopra gli occhi e le tempie incavate, c'erano delle torte di ghiaccio. Quando lo vide, capì. Il loro stesso respiro, che saliva verso l'alto mentre arrancavano davanti alla tempesta, le aveva congelate e accecate. Oh! In un impeto di pietà, in un grido prorompente contro la crudeltà dell'universo, si tuffò nella neve verso la più vicina creatura, pazientemente morente, le strappò il ghiaccio dagli occhi. Il manzo sbuffò, alzò la testa per il terrore e corse barcollando. Tutta la mandria tremò. A pochi metri di distanza il manzo si fermò, esitò per la paura della solitudine che lo circondava e si voltò incerto verso la mandria. Dalla sua gola uscì un lungo lamento di miseria. Poi anche lui lasciò cadere la testa. Carola sapeva cosa doveva fare. Pensò al bambino, traendo la sua forza dalla sua. Tenne ogni pensiero, ogni sentimento saldamente ancorato al bambino. E camminando verso il giovane manzo, più vicino, gli puntò la pistola alla tempia. Chiuse gli occhi e fece fuoco. Il colpo lo squarciò in pieno. Lei sentì il brivido di tutte le altre bestie quando aprì gli occhi e non si erano mosse. Il manzo giaceva morto, solo un po' di sangue gocciolava gelido dalla ferita. Forse era stato misericordioso ucciderlo. Poi, come un'ispirazione, un risveglio di ogni gaia speranza, pensò a una mucca, la mucca! Perché no? Nella mandria c'erano molte mucche. Chissà, appartenevano a qualcuno, forse, ma a chi? Lei non lo sapeva. Forse non lo avrebbe saputo mai, impossibile indovinare quante miglia, centinaia forse, avevano percorso, spinte dalla tempesta, ma erano marchiate, non poteva rubare. Eppure, se non avesse preso una di queste mucche, sarebbero morte. L'intera mandria accecata era indifesa e morente. Uccidere per mangiare era lecito, ma rubare? Lei era una ladra di bestiame. Ma una mucca, latte per il bambino, sorprendere Charles quando fosse tornato a casa con una mucca. Pensò che forse c'era un giovane di un anno che non era ancora stato marchiato, e la sua eccitazione stava quasi ridendo, impacciata negli stivali, nel cappotto, negli scialli che si era messa addosso, si spinse attraverso il branco innocuo. Le giovenche, sapeva, sarebbero state al centro. Il vecchio toro brontolò dalla gola, scuotendo la testa cieca, ma non si mosse, non scalpitava nemmeno sulla neve. C'era una giovane giovenca senza marchio, quasi paffuta, di un rosso chiaro dappertutto. Caroline la segnò come sua, come loro vacca. Questo incredibile prodigio della fortuna la riempì di una gioia senza fine. Che trionfo, che scherzo del destino, sottrarre una mucca alla bufera, sottrarla proprio in mezzo a una mandria pericolosa e avere una mucca dopo tante calamità. Nonostante le calamità, avere una mucca era la rivendicazione di ogni fiducia e speranza. Lottò tra le colate di neve, attraversando il torrente, risalendo l'argine fino alla piroga. Alimentò la stufa con il fieno, allattò il bambino, lo vestì, caldo lo avvolse nelle coperte come in un bozzolo, poi andò nel fienile a prendere una corda. La giornata invernale scura non le diede molto tempo. Il sole era già alto prima che riuscisse a spingere e a tirarla fuori dal branco, la giovenca terrorizzata, selvaggia e accecata. Si aggrappò con disperazione alla sicurezza della mandria e lei dovette ancora portarla attraverso il torrente, su per l'argine, nella stalla. La sua forza, più grande della sua, la spingeva ad abbandonarla. In un solo frenetico tuffo saltò e annullò il lavoro di mezz'ora. La sua cecità fu il suo unico aiuto e lei ringraziò Dio per il freddo pungente che continuava a mantenerla cieca, ma spesso si fermava per strofinarsi il viso e le orecchie con la neve e battere le mani intorpidite sul petto, perché non riusciva a mantenere la sensibilità delle dita. Era quasi il tramonto prima che fosse riuscita a portare la giovenca nella stalla. Mise del fieno nella mangiatoia e strappò il ghiaccio dagli occhi della giovenca. Con la corda e l'ascia tornò alla mandria. Tagliò le parti migliori della carne dalla carcassa semicongelata e legò i pezzi insieme. Poi, tremando per la stanchezza, passò di animale in animale, strappando il ghiaccio che le accecava. Il bestiame sbuffava e prendeva a cornate la neve. Ognuno correva di qua e di là, barcollando per un po' e aspettava, mugugnando tutti gli altri. Lentamente la mandria andò alla deriva, nel vento. Il sole sprofondava nel freddo, il bagliore svaniva nella neve, e nel crepuscolo lei liberò il vecchio toro, il quale alzò la testa, muggì debolmente e si tuffò barcollando dietro la mandria. Nel buio non avrebbero visto il suo fieno. Il vento soffiava verso il luogo della città. Che siano i contadini ad occuparsi del bestiame scampato e sopravvissuto. Caroline aveva dato al bestiame una possibilità di vita e sentiva di essersi guadagnata la sua mucca. La bufera di neve che arrivò quella notte durò solo un giorno. Caroline stava comodamente sdraiata a letto. Il bambino gorgogliava e scalciava con esuberanza di spirito. E un grande stufato di manzo cuoceva a fuoco lento sulla stufa, riempiendo l'aria con il suo profumo. Il fieno pieno di neve nella mangiatoia sarebbe bastato alla giovenca, sia come cibo che come acqua, e l'ululato della bufera non disturbò Caroline. Lei sentiva la gioia spavalda di Sansone che abbracciava in segreto il suo trionfo. Un leone mi ha ostacolato, ma da chi mangia ho preso la carne, da chi è forte ho preso la dolcezza. Se solo Charles avesse potuto sapere che avevano una mucca. Ma ora lei era fiduciosa che Charles sarebbe tornato a casa forte e in salute. Quell'inverno sarebbe finito e sarebbero stati insieme in primavera. E com'era bello sdraiarsi su una soffice zolla di fieno, sotto calde coperte. Com'era bello sentire la forza rincuorante della carne che si diffondeva sonnolenta in tutto il corpo. Com'era bello stare al caldo e riposare. Lei sentiva di non essere mai stata così grata per tutte quelle benedizioni. Due cosce di manzo che aveva lasciato fuori dalla porta a congelare nella neve. La bufera di neve le aveva sepolte e lei non toccò quel ben di Dio quando scavò di nuovo il sentiero. La neve cadeva ancora abbastanza fitta da riempire l'aria come una nebbia attraverso la quale vide il fienile e i pagliai. La giovenca era ancora legata al sicuro nella mangiatoia, sbuffava e con gli occhi selvaggi guardava mentre lei portava il fieno e metteva a portata di mano due secchi di neve per bere. Le parlò con tono rassicurante, ma evitò di toccarla. Col tempo avrebbe imparato la sua gentilezza e sarebbe stata gentile anche lei. Aveva tutte le caratteristiche di una buona mucca da latte. Caroline chiuse la porta del fienile e fece scattare il lucchetto, provando un orgoglioso senso di proprietà della quale doveva prendersi cura. Non c'era vento, intorno a lei sentiva il fruscio della neve che cadeva. Con la pala e la corda si diresse verso il pagliaio. In seguito si disse sempre che non sapeva cosa l'avesse spinta a fermarsi e a voltarsi. All'angolo del fienile si trovava un lupo.